a portà. Un bidet, ma regalo, grazie, un bidet. Ah, beh, una bicariglia e una pinzetta, una lente. Sì, nel 2002, a me è un bidet, capito? Così non ti dico quello che penso, ma regalato un bidet, tu pensa cosa c'è, un bidet, non penso mai. E Natalino è innamorato Natalino. Io invece dopo 40 anni cosa, oramai. Io l'ho regalato una cassetta di fiorellini, curiosità, tre rose, 15 euro, tre rose, anche a posto. Ha giubilato una cassetta di ciclamini, poi il prezzo non sa so più tutto. Gerani, questi colorati, e ciclamini, quelli già lo sa, quelli che poi piacciono piccoli, le basi, con tutti i fiori, belli colorati. Qua quindi di là di dice che sono i figli, era la 75 centesimi. E qua questi sono le piantine di hanno la malata, di gerani. E ho fatto una bella cassetta, di quelle cassette della frutta. Io che ci la peggia su Lucati, un po' qua nel cestino, un po' nella veranda, un po' nel salone. E ho finito tre rose, 15 euro, roba la massima. Ah, non si può comprare più niente, no? Lascia perdere. No, beh, una scatola di cioccolatini, qualcosa del genere. Già si può comparare, dai. Però in questo periodo bisogna stare molto attenti. Ma dico io ho speso neanche 10 euro e ho preso tutti questi fiori e ne ha messo qua in cucina nel cestino, un cestinetto in paglia che ci aveva lei conservato che era con i fiori stesso quando l'avevo preso, poi un altro cestino in veranda che è bello pieno, sono tutti fiori colorati, e uno è salone. Conviene più una cosa del genere che pigliarsi tre rose giù. E si conferma, e si conferma. Natali. E quindi mi ha fatto un regalo. E vabbè, una cosettina, dai. La vita Graziano. Graziano ha regalato una gassetta di Vicaridia. A pulizia il gomma di vostra mano. Ehi, infatti no, a me non passerà sul marito, infatti la dice, ma che c'è San Valentino, si ruba la femmina va. E fare un maccio non fare, sta male il riposo. Sta di riposo io, a te una cascetta vigarita, a me mi ha regalato un comodo, quindi. Cosa vuoi che sia via? A nulla. Oh, io, grazie, sono finiti i tempi belli di fare regali e tutto, capite? Mi è meglio andare a mangiarsi una pizza, andare, capito, uscire, che fai quindi queste cose in fesseria, che sono fesserie oramai, non si vede a nulla. Ehi, no, io gliel'ho sempre fatto regali. No, però è anche giusto, anche quando la detenza non mi devo fare, glieli faccio sempre. Una sera mi ha scavalcato così, mi, e l'ha detto a un pagiami che giù, glieli era bambino della licea, questa mi ha venduto, avevo visto la cosa. Sono detenza che sono vestito con un anellino bello, con la perlina d'oro, te, fatto un regalo, non si decatti. Marco se l'aspettava lì, non le voleva neanche. E io sono occupato così. E poi io gli ho spiegato di Marco una che già qua, gli prendo sopra io per casa, mi piacciono. E dunque le compro sempre. E ma mai lui si incontra di poco, noi mi succede così. A chi la rosa mi piace e una casa buttate via e prendi una rosa, no? Trovate con il tiro, neanche, ho fatto tutta questa specie di compassione, eh? Perché in tutti i tempi usi. Vabbè, certo che sì. Nei fiori piacciono anche a me. Donano la casa e profumano, eccetera. Mi piacciono anche le piante, queste cose. Però in questo periodo, un tempo talmente brutto, ne avevo una di pianta, ma poco. E se si cada, non so perché. Va bene. Vediamo se qualcuno su 10 che vuole entrare avanti. Non c'è sta nessuno. Piacciono anche le piante, io so che pieno di piante, io tutti i rastri in me, ce ne ho una con le foglie quelle grandi, sembrano, adesso non mi ricordo come si chiama quella pianta, c'ha le foglie grandi, mie enormi, poi c'ho un sacco di altre piante belle, c'ho l'edera, ma ne ho dappertutto qua, anche nell'andrologia del rostro mio, avevo fatto tutti gli scheletri in legno, no? A quadrati, grandi, con tutti i quadrati, e lì ci sono fiori rappiccanti, verde, poi al periodo suo già escono anche più, poi ne ho nel salone, nell'ingresso, nella veranda, nel sopra il terrazzo, lì c'ho anche due tronchetti, lo sai che bellissimo. Faccio bua, ormai avevo messo un orto di pesca, lo sai, c'ho l'acquarello delle pesche, quest'anno dovrebbe mettere anche il frutto. Addirittura, allora si è organizzato bene, grazie, andare. Avanti Natali, vuoi parlare? Gatto, fai, già siamo qua. Anche due piante di nespole c'ho, e stanno belle che crescendo, perché le ossa delle nespole io le metto nel vasino, poi c'è la piantina e la travaso in un altro vasetto, quando ne ho 5 le travaso tutte in un vasetto, quando sono alto 50 cm se ne va in campagna e le piante in campagna, la frutta io la faccio anche così. Adesso devo fare una prova, che l'ho vista su internet. Prendere una rosa e picchirla dentro una patata, il ramo della rosa. Ah, lo metto dentro una patata, gli faccio il buco e ce la metto precisa dentro. E la lascio. E la scritto dopo, massimo un paio di settimane, vedrai il risultato. Non devo fare quella prova. Beh, cosa fate? No, cosa c'ha, perché? Cioè dura di più. Ma non so se fa germogliare la rosa anche piantata in una patata invece pulirla la terra. Oppure non ce l'ha scritto. Verrà a fare la prova, vedrai la sorpresa, la combala. Però non te lo diceva cos'era la sorpresa, diciamo. E io sto pensando, alimenta, è dura, ti cresci dentro al passato e non muri. Oppure mi cresci in altri milioni di chi c'è dentro della rosa, non te lo so dire, io ho pensato una cosa del genere. Devo provarlo in questi giorni, già ce le ho le rose che ho preso la settimana scorsa, è diventato un mazzo, mamma. Solo ci ho messo quella bustina per fare due occhi e sono belle ancora. Quando vai che si gioca la maglia e ne piglio due e se li sacco e faccio la prova. E si è a posto. E ho fatto affari. Già si può fare. Poi c'è una prova che hanno già fatto su internet, grazie. Allora non c'è problema, capito? Lo puoi fare e vedere i risultati se sono quelli. Commenta. Sì, su da Grecia. Ciao, buonasera. Sei sparito, su da Grecia. Lo senti, grazie, te prego. Sì, che lo sentito. Ha parlato, parola che ho preso da dici. Sì, fa vedere la conto giuria. Vuoi entrare. Ciao, buonasera Grecia, buonasera. Buona Italia, buonasera. Tu falla la prova, grazie, fai la prova e poi vedi un po' se il discorso è giusto, se è quello che dice internet. Così c'hai un esperimento in più, no? Lo provo, certo che sì, voglio vedere a vedere cosa ne c'ha pure. Tanto per curiosità, magari lasciami le rose, cosa ne so, bisogna che lo faccio. Oggi non c'era perché era una visita, qui c'è la visita auta. E gli si mette le mauto un virus negli occhi, a tutti e due gli occhi. E tanto bacia mamma ha prescritto un collirio per sempre, 4 volte al giorno, per il momento per 12 giorni. E poi mi devo pure, se vorrei andare a vedere quante volte me le devo mettere. Ma sapete, grazie, io sono in malattia da oggi, figurati, tutto il mese. Adesso giovedì c'è una visita a Torino perché mi hanno riscontrato, pensavo che fosse una tracheite, rigite, invece c'ho un ascesso sotto la trachea, quindi bisogna verificare il perché. Un bel campanello di allarme, infatti abbiamo buttato via le sigarette, tutto a posto, però adesso è iniziata la cura, e giovedì c'è questa visita che è molto importante perché sappiamo di che morte dobbiamo morire, quindi la sappi lì, i malanni ne avevamo tutti. Quando sembra che non hai niente, vedi, basta una semplice stronzata che subito, anche io oggi ho tutta la mattina impegnato a fare visite, detto, quindi, ti ripeto, quando pensi di non avere niente, esce una cosa e si è vuotito, e questo è un bel campanello d'allarme quando ci sono queste infezioni sotto la trachea, capito? È un bel campanello di allarme. Comunque, andiamo avanti, chi su riesci, esci, grazie, ciao, mi dai cura. Cosa devo dire? Se ti porto l'elenco di tutti i fatti, io sto con la pizza e tu dici che se l'ha presa, ma non me l'ha visibilizzato, grazie una puttana. Vuol dire che non mi sto camminando, grazie una puttana. Ma intanto non c'è altro. Tutto quello che ho vissuto è tutto lì, no, non c'è altro, tutto lo c'ha ammaluto, ma e cosa vuoi fare? Da un malato un mese, da un uovo un mese, poi il medico me l'ha detto, non lo sai che così c'è, sta brutto. O curi una cosa e te ne viene un'altra, magari ma te si dai civilizzini che ti viene a curarti di tanto malato, perché così, ma e vabbè. Domina tu, tanto come va la barca vaciccia di zia Mappo? Io infatti, io pensavo fosse una, più che altro se a volte in questo periodo per il caldo e il freddo delle placche alla gola, delle cose, invece no, è diverso. E qui devo fare una visita a Torino per vedere degli esami accurati, per vedere perché c'è questa infezione. E quindi c'è che malattia oggi ho iniziato la cura. Vediamo un po' che si dice. Viene sempre, grazie a tutte le ore, così si dice. Viene sempre. Ma a me è troppo, Il mese scorso ho fatto la visita al Nero e mi ha avuto insufficienza renale. E la dice cosa mi dà? Altre medicine. Guarda, se me le danno, non ne prendo, non mi dà tutti niente. E io turbata, però vabbè, adesso vediamo in avanti, mi porti di nuovo gli analisi, sì, ma basta che ci avanti già di base di medicina, ancora no? Io mai, grazie, mai medicine pochissime, non ho mai avuto patologie molto interessanti, importanti, però questo è un campanello d'allarme che fa sì che i controlli vengano fatti più accuratamente, capito? E in ogni caso abbiamo già dato un taglio alle cose che possono influire in questa cosa, che è la prima cosa, la sigaretta. E comunque mi fa male molto la gola, c'è questa infiammazione. Oggi ho già cominciato un cortigiano, quindi vedi tu, è preoccupante per me, perché io non ho mai avuto niente, però purtroppo quando cominciano le cose non hanno mai fine, diceva quello. Ma un cortigiano non bisogna di prendo il clipper 5 mg, quello lo prendo tutti i giorni, infatti prima ne pigliavo due volte al giorno, poi mi ha fatto uscire delle chiazze, tutte rosse in faccia, nelle spalle, in pittorate, tutte. Tutta chiazza rossa insomma. E lei al cortigione, me l'ha passato, però oramai con le chiazze ce le ho sempre, non mi spariscono, nonostante che ne prendo una e faccio. Ha provato a cambiare un cortisone, un altro nome, e mi succhiavano i peli e la mola di un gusto, ma pari a caso. E allora glielo ho detto, andate, mi ha controllato e me l'ha levato e mi ha rimesso questo, io non è che ne posso cambiare molti di cortisone, questo un po' già funziona, però se ne prendi di più mi grippa. Grazie, come tutte le cose, capito? Come tutte le cose, purtroppo, quando ne approfitti, fa male. Io ero già una settimana che ho preso una protezione per lo stomaco, un'appendisi, un veligosi, convinto, ti ripeto, che fosse una venivista anche a parlare, cosa che non è da me. Quello ti stavo dicendo, convinto che fosse una semplice infiammazione, insomma, le placche alla gola, tutti giù un antinfiammatorio, ne ho sempre a casa, anche perché li conosco tutti da quando lavoravo in Difarma, e quindi ho sempre la scorta di queste cose. Non so, ho chiamato il mio medico per vedere quanto potevo prenderne di Zimox, che un antibiotico, e basta. Ho iniziato da solo, ti ripeto, convinto che fosse niente di grave, invece stamattina sono andato dal medico per farmi fare il certificato e abbiamo trovato la sorpresa, e quindi immediatamente una visita specialistica, e così poi vediamo com'è la situazione, là. Purtroppo è così, ma siamo come le macchine, non dura mai lunga lui. Claudio, mi ha aperto 10 minuti che me ne levo la roba da fuori, a chi tra poco comincia a fare l'intorno e me la bagna e me la metto vicino alla cupa, non mi lascio da me. A dopo. Vai tranquillo, grazie, noi siamo sempre qua, se ti fa piacere siamo qua. Non ti preoccupare, ciao, a dopo. Cosa c'è, genio? Buonasera. E come vuoi che vada, oggi sempre a piedi e sempre andemi. Dimmi Natali. Non ho capito. Come va questo tipo di apparato, così? È più basso dell'altro, sì, Antari, molto più basso. E si allontana. chiamato un attimo Graziano, ha detto che arriva subito, è andato a vedere la roba stessa. C'è Eugenio al produttore, se ma non ti ascolta. E c'è un'antenna interna o oh, hai capito, non ti ascolta neanche lui. E quindi Eugenio, che si dice? Non sei uscito per niente. Se sono riuscito a fare visite, il controllo visite, avanti chi vuole entrare, avanti chi vuole entrare su 10, ma schiacciato la portante però non entri, e allora non so cosa dirti, KK, così oggi, avanti lì, avanti, evidentemente si è accorto che ha sbagliato il canale, capite? Può capitare, sembra che sia in un canale, poi invece sia in un altro. Ehi, la donna di Ietti, c'è una dirigente oggi, sono tutti sparpagliati, io, ecco pesce. Qui fanno, questo canale fanno TV Rai. Invece l'altro canale non è arrivato di qua. Dritto. Marco non si è sentito. Cosa Natalia? L'hai sentita Marco? Non siamo sentiti su WhatsApp. Ma ci sentivamo più tardi. Basta che non si sia addormentato dormito, ma ti ha fatto arrivare, si è appesata a risetti, pronta a mangiare. Cosa picca, la benda, si mette in ghiaccia che devi fare a mangiare, capito? E poi mangia le sette di sera, ma pranza, balombi, non cena. Quando stai a Numaci, Macini, ehi, qua sono io oggi, sempre qua, la Capignara, non ancora no. Così tu hai già picca, è nata lì dentro, si dromi, e poi si dimentica che c'era di vedere a terra. Ai ai ai ai ai. Aspetta, porto sto bicchiere in cucina, che mia moglie mi ha fatto una bella spremuta di arancia. Eccomi genio. Io anch'io sono qua. Chiuso. Non so se muovi dentro. Ma cosa ti ho detto io che chiuso? Ma chi è che è chiuso? Che cos'è che è chiuso? Io? Sicuramente, spaghetti. Mi ha fatto un messaggio, voglio vedere chi è. Marco? Ehi, aia. Gappa, gappa. Vabbè, a me ascolti. Sì, però ti ascolto basso del radio, come mai? Prova. Adesso va molto meglio. Ricaricare, no, per prima e poi qui come. Come mai, devi fare? Sto sbagliando il tu ci sembra al buio come pipistrelli, te l'ho detto io che tu sei un pipistrello, ma non perché te l'ho messo io, perché la realtà della cosa, tu esci sempre a rugio, sempre. Io beh, ci sono tardi, però non ti sfrutti la giornata in pieno perché è già buio, perché non puoi fare una passeggiatina per mille cose, tutto lì. E ho detto un attimo. Dove sei? Entrare in viale a Porto Sopra, qua. Sai che c'è qualcuno, va. Volevo andare da Gianni a richiedere la radio, ma non c'è problema. Se c'era lui, non... Ho capito, non c'è problema. Io richiederò domani, dai. Eh beh, se è lì, stai tranquillo, non ce n'è problema. Quando c'hai tempo, ci vai, te la ritiri. E mai fatti. Ho detto, lì ti puoi fidare. Non è come ho fatto io. Ma si è venduto la roba all'altri, capito? E poi anche noi andate a dire la gioia la roba. Ma ho lasciato perdere, se no avresti visto che c'è una passata. comprati tutti e due, chi ha comprato e chi ha venduto, però ho lasciato perdere, non campo da quelle cose, ma mai più ho prestato roba a nessuno, mai più, se la vuoi te la compri, se no io non devo prestare niente. Poi ricordati una cosa, veramente, non gli strani, sono gli amici che ti portano di più, gli alusai, no? Ne abbiamo la dimostrazione in casa, no? E usai, e tu hai preso colpe proprio dal tuo più caro amico. Ma la cosa lì, in quel periodo, mi ha fatto un po' incazzare il fatto che gira ce ne erano i vantendi, capito? Ah, io l'ho comprata, che cosa vuol dire l'hai comprata? Che è la tua? Va bene, e io ho ancora qua la scatola di quel VHF, e il manuale di istruzioni. Quindi nessuno ti ha una scatola vuota col manuale di istruzione. Perciò, vabbè, ho lasciato perdere, ti ripeto, anche perché di mezzo c'è una persona grande, quindi non ho voluto colpire, altrimenti avresti visto, avrei annibaldato la zampa, tutte e tre, ma la zampa vuota viene annibaldato, però non si vive solo di queste cose, capito? E infatti lui è stato eliminato. Ma cosa brutta, sono andato a casa di Gianni Caprirue e ho visto la mia radio, e questa è la radio, e non posso fare il nome qua, perché tanto è sempre in ascolto, capito? È sempre in agguato, un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a centro palla, e quindi Emilio animare ancora le cose. A me me l'ha dato Tizio, a Tizio che l'ha dato Tizio, ci manchi che ero mio, come ti vuoi averlo tu? Sì, io l'ho prestato a Tizio, no, Tizio l'ha venduto a un altro, Edu l'ha venduto, ho preso, e tu la compra a vendita, c'era dei goci di lacri, quattro radio me ne ha ciullato, quattro, è andato a vantarsi che erano le sue perché mi aveva fatto dei lavori in via Pascoli. Quando mi ha fatto i lavori in via Pascoli, siccome i soldi non le voleva, gli ho dovuto regalare la T250 della Kenwood per affiancare alla 140 che c'aveva lui, capito? Che l'avevo pagato 350 euro la T250, gli ho dovuto regalare, io me lo sono ricomprato, e poi perché è un morto di fame se l'ha venduto a 150 euro a Daniele. Dove ti dica, si è preso la buona uscita anche lui, dai. Allora fottitini, pensiamo alla salute, dai, che io sto sempre a mal di schiena e chissà cos'altro accidenti ciò, dai. Sto per arrivare da Ocean, io già lo sai cosa c'ho. Adesso andrò a Torino il giovedì e poi vediamo un effetto medico. Vabbè. Va bene Marco, non dico, quello è una parte dei discorsi, non capito? Poi sei sempre in bocca di tutti, hai sempre fatto solo del bene. Ma io, ripeto, ho voluto lasciar perdere, perché sennò ci hanno passati tutti, chi ha comprato e chi ha venduto. Chi compra è ancora peggio, perché c'è la torsione. Io c'ho tutto documentato che la roba era la mia, non c'ho con mica pacco. Quindi, capito? Vabbè, quella è la gente che hai fatto del bene. Poi ci sono gli sciacalli, capito? Che andano a sputtanarti pure, no? A dire la colpa è la tua. E invece ci sono dei miserabili che favitano di cose, di lacri, senza sapere manco di cosa sono favitendo, non sure. Anche quelli eliminati. Dimmi se sei arrivato, dai. Fotografia che c'è dietro Ocean, negozio di fotografie, devo fare due stampe, a tempo che stampano le foto, vado prima da Bricone e poi da Ocean a tirare frutta, fuori verdura, le solite cose, dai. Dopodiché, una volta ritirate le foto, vado anche da Bricomen, quello lontano, no? Bricomen, quello lontano, e qual è? Se riusciamo si chiama Bricocetta. Bricomen è quello che dopo svolti per 3 anni da nord. Ah, sì, sì, sì, ho capito, Va bene, Assolutamente. Una persona che ha sempre meritato, per carità di Dio, perché quando l'ho chiamato si troncava al collo, però sempre l'incompensato era grande. Invece io ho la testimonianza di Mario Masse, che è venuto col furgone. Mario, quando avevo portato giù i mobili, quei pochi mobili per rimanere un paio d'anni, c'era anche Mario. Mario aveva regalato il 7B col camel più 3, capito? Regalato, e lui aveva regalato la T250, calcolatore automatico che aveva, che si doveva attaccare al 140, che tra l'altro gli ho fatto prendere io da quello di Alghero. Quindi, mentre poi colui ce l'ha venduto, è rimasto senza, e io l'ha giurato così 80, e Pulughisso ha fatto la fine che ha fatto. Meno male sono riuscito a recuperarlo, sempre da Gianni Capri 2, e poi me lo sono venduto per i fatti miei, se no avrei perso anche quella, capito? Va bene, ti lascio andare dove devi andare, dai, sono qua. Beh, quando esistono ancora persone come quella che ti ho letto, è chiaro che ci saranno sempre discorsi e fatti molto, molto sempre da mettere in bacheca, perché non si finirà mai di mettere cose in bacheca, capito, carissimo? È così. Ne abbiamo parlato anche ieri, mi sembra, no? Perciò, oramai il gruppetto è quello, capito? Il ciu-ciu-ciu, il qua-qua-qua esce sempre da lì, no? E poi si forma in quello che è il sistema in telecomunicazione. Se fosse così, ci sarebbe veramente da preoccuparsi. Io qua sono, è tutto acceso, ma qua sono. Ci ho quattro canali, comprese le V e le U, sotto controllo, ma sempre qua sono io, ok? Non vado a rompere le palle a nessuno. Ciao. Ma in macchina, Natalì, sta andando a Città Mercato, anzi al Bricome. Niente volevi. E dopo quando rientro glielo dico, perché adesso è sceso dalla macchina, capito, Natalì? Sì, sì, il baracchino c'aveva, sì, c'è il baracchino. Sì, beh, lo senti sicuramente quando sale da Città Mercato, quindi stai allerta qua. E senti a Luca Belmonte, a vedere se c'è qualcosa per preparartelo. Ho capito. Va bene, va bene. Che ore sono? 7:10. Inizio a sentire un langurino di stomaco. Fra un po' mangiamo qualcosa. Sono qua comunque, andata in ascolto. Aspetto che rientri Marco, Antonello, poi dovrebbe rientrare anche Gianni, sono qua comunque. Ho fatto quella cosa che mi hai detto del cluster, perfetto, ingrandito i numeri, ingrandito tutto, ed è uguale come ce l'avevo prima, capito? Sempre nel nodo che c'era, che è HB9, DRV mano 9. Sì, mi è tornato la normalità, numeri belli grandi, tutto ben separato, data, time, frequenza, gli ex, spot, i commenti, capito? E poi anche i gradi delle antenne, i gradi dell'antenna. Va bene, finalmente sta sempre funzionando, ma vediamo, beh, ok, a dopo Natalì, vado a mangiucchiare qualcosa, beh, è tutto acceso qua. Sì, ti ascolto. La devo prendere, non la so. Scusa, non ho detto un bricone, il bricone è mica vende frutta. Ero dello shampoo, ma per esempio devo fare il frutta. Va bene, siamo vicini. Tutti a disposizione. Non lo so perché io ce l'ho detto, un impegnato. Se faccio un papà, vado un po'. Ada, ada denada? Niente. Poi, fate in fretta, sapevo già cosa dovevo fare. Questo è un bel giro, dai. Volevo uscire il pomeriggio, però come al solito io, essendo pipistrello, sono uscito alle 6 quando cala il buio, no? Beh, era ovvio. E come sempre io ci penso, ci ripenso, escono, non esco, alla fine esco tardi, capito? Sono uno che dice, pensa troppo a fare qualsiasi cosa, poi se la fa la fa tardi. Ricorda che il motto mio, non rimandare a domani ciò che puoi benissimo rimandare a dopo domani. Giù alla testa della pancia, modulo e si sente lo stesso, se mai pensano che stia parlando da solo. Sì, c'è un'altra cosa, poi c'è l'arresto, se ti trovano guidando capovolto, perché praticamente quando pipistrello tu dovresti guidare capovolto, giusto? Vabbè, quando voli. No, quando guidi no, solo quando sei in stasi ti stai capovolto. E come hai visto pipistrello volare capovolto, vola dritto. Io proprio dritto dritto no, è tutto curvo. Guarda che sono esaurito, stavo cercando le chiavi della macchina perché non le sentivo nella tasca e c'è già il 400. Per carità. Così peggiori. Ascolta, puoi fare un esperimento, passare un attimino in FM a vedere come va meglio. Allora, quale FM non è che funzioni tanto bene, però proviamo, dai. Vediamo. Vai un po'. Io ti sento bene, bisogna vedere se mi senti tu. Ma, diciamo che non cambia niente. Voce c'è meno USB, ovviamente, però il voce c'è il segnale lo stesso, più o meno. Ma allora che facciamo? Siamo in FM o AM? Non lo so, tu cosa preferisci? AM, perché qua ho messo un po' di squelci contro il QRM, magari se come oscilla potresti sparire. Vabbè, anche in AM c'è per questo. Io lo tengo sempre anche in AM, se no mi assorba. Va bene, passa in AM. Sto partendo. C'è la batteria scarica qua comunque del mic, la devo caricare. Vabbè, io so già l'euro 4. Cosa devi fare con la colazione, no? Colazione no, cenare, sai perché sta arrivando qualcuno. Sì. Mamma non risponde mai al telefono, la chiamo al cellulare, la chiamo alla... cioè ce l'aveva stasera che c'ero io a 50 centimetri, se la squillava lei non lo sentiva. E quindi mi tocca incazzarmi poi. No, compra quei telefoni grandi che hanno la campanella, tipo quei telefoni, no? Che fa lo squillo, non elettronici. Che fa il pin classico, magari ci fossero ancora. Quello era bello bello forte, erano i telefoni a rotella. Ma lo ricordo io, molto forte, ti svegliava se dormivi, ma questi cicalini, questi corda, i cicicicic, cioè non senti nulla. Per lei, per il suo dito è basso. Ma lo puoi mettere comunque. Metti un telefono di quelli vecchi che hanno la suoneria. In parallelo a quello cordless. Boh, io ho la linea digitale però, che serve sia il wifi che il telefonino, non credo che funzioni. Ah, VoIP quindi? Sì, VoIP. No, quello non funziona più. Purtroppo, cioè, un vantaggio, però è uno svantaggio. Mi piaceva il telefono vecchi. Metti un comando di TMS, lascia la radio accesa e ci cubri una fuoria, oppure una sirena, una tromba, un suono tipo quello di una nave. E così almeno puoi, con un semplice pulsante, puoi telecomandarlo. Oppure Amplifon, ecco, un bel impianto, nell'orecchia, vedrai come fa bene. Adesso devo avere acceso qualche cosa, sento un QRM a 7, non ho capito cosa possa essere, ma non si altri UX, che qua di norma è sempre F0 il QRM. Vabbè, giustamente, diciamo che tu ci deve essere, no? Adesso ti ho sentito, però ti copre un po', Dove ti trovi ora? 131 di ritorno, dai. Sparito, adesso va bene. Hai detto 131? Di ritorno a casa. Sta tornando a casa il pipistrello, Io sono entrato adesso col cane, entro a salutarvi e vado a cenare. Quindi vi saluto, ciao Gianfranco, ciao Marco. A domani. Ok, avanti Gianfranco. Ciao Claudio, buonasera. E ti sta chiamando, poverino, non stop, Marco, tutta la sera, e da luna lo sento a urla, ma non ti sei fatto io. No, già siamo sentiti con Marco, ci sentiamo tutti i giorni, dai, se non alla radio, se non c'è nessuno, ma due chiacchiere su WhatsApp già ce le facciamo. Poi l'ho accompagnato, appunto dovevo andare a Città Mercato, io nel frattempo mi sono sistemato alcune cose, ho portato il cane e adesso sono rientrato, mo si cena e poi ci sentiamo domani, dai. Comunque sono a casa sino al 26 di febbraio di nuovo, perciò avremo modo, Marco, anche di sentirci, magari di vederci a prendere un caffè di mattina, Ok? Purtroppo faccio un sacco di tempo da usciamo, pertanto se non facevo meno. Ho perso un po' di tempo da usciamo a cercare roba, poi non ho etichettato la frutta, sono dovuto tornare, ero già alla cassa, sono dovuto tornare indietro a etichettare la frutta, quindi vabbè, ho perso un po' di tempo, dai. Finalmente si torna nella caverna mia, a casa, nella tana. Io ho una caverna, nel nido del pipistrello, quello già va bene, vero Gianfranco? Sì, è sotto qualche tegola magari. No, c'è il nido lì, nel cassone della volgibile, capito? No, la caverna è più bella, è tipica dei pipistrelli. Vedete mamma Doia dicendo che la sua casa è una caverna di lincia. Magari sta ascoltandomi, magari ha accesso il baracchino per ascoltare. Liu, ci sei? Se ci sei rispondi. No, forse non. Ci sono io, c'eri tu, poi grazie è andato a ritirare la roba, ad attendere, si è avuto mai di vecchi. Poi l'ho sentito in PMR, niente, e quindi non è entrato più nessuno su 10, ma non c'è grande traffico stasera, un po' la gente è svogliata, ma inizio settimana, quindi va bene, dai signori, vi saluto, Marco, buon rientro, buon tutto, Gianfra, noi ci aggiorniamo, stiamo bene e alle prossime, ok? Ci sentiamo, buona serata a tutti, vai Gianfra. Ok, ciao Claudio, buona serata, buona cena. Avanti Marco, dove sei ora? Via San Paolo, posto bello, lì ci sono tante case. vedo che ci sono tutti i camion delle poste parcheggiati. Stanno trasportando qualcosa. Allora ecco perché sono qua. Ecco perché non arrivano i pacchi. Sì, guarda, quando perché questa dalla Cina ha un po' più anche la festa, quasi 2 mesi arrivare. Magari ci mette 10 giorni dalla Cina all'Italia, no? E poi rimane lì buttato in mano di chissà quale gente. E si arriva a casa, capito? Sì, no, vabbè, ma ti fermo in dogana, Se tu lo tracci il pacco, è in ritardo in dogana. Poi magari anche pacchettini significanti, proprio roba che certo non possono essere diamanti. E sono un sacco di tempo in dogana, devono smaltire. Poi se è un pacco che vale, guai, roba di conto che ti arriva. Le patate che tu chiedi l'utilizzo di DHL fanno tutto loro, è molto più veloce la cosa. Lo so, infatti quando si ordinavano i baufelli con i Voxion, no? Il sito 409 consigliava di mandare con DHL che aveva una specie di dogana loro interna o così dicevano in giro. Infatti non pagava nulla. A parte che quel farabutto del venditore dichiarava 10 euro o 10 dollari di valore della radio, no? Quindi, maggiormente, non era soggetta a tasse. Quindi, chiedo che avrei pagato se sei da parte. Dipende. Poi, sei tu comunque. Chi paga sei tu alla fine, perché se lo scoprono poi per ritirarlo devi lanciare soldini. Veicolari portati, paghi già. Quello sì, non c'è ancora dubbio su quello. Sì, no problem. Sì, ma no, a volte arrivi molto forte, 9, ma sei anche il 9, a volte te ne scendi a 3, 2, ma sai che zona sì. No, ti sento, ti deve essere 9. Sì, la conosco. Ciao Natalino, buonasera. No, mi senti adesso? È male. Oppure male è poco, così . Adesso Caprera, angolo via le frente. No, io ti sento sempre, già lo sai come ricezione. La ricezione è formidabile per sto coso. Ma questo è un baracchino omologato, Peccato che l'antenna non sia molto performante quella lì. Con la carica sono mangia a metà potenza. Anch'io ti sento, adesso sei arrivato 9, oltre il 9. A quest'ora? Che te lo paghi? Dove l'hai trovato? In Viale Marini. Magari sono invalidi. Ciao, buon pranzo allora. 7-9 comunque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, sono circa 5 watt. Ciao.